guarda di sfuggita dentro la metropoli. Il traffico scorre lento, il vento fa altri metronomi. L'ombra taglia le case come Martha Clark, yeah. Il linguaggio si confonde come fossero estofoni, yeah. Gli occhi di chi ha visto il vero Mozambico, di chi non sa qualcosa più grande di loro rispetto a ciò che hanno in mano l'impero romano dopo Costantino. Sfonda il frontalino, il pezzo parte dove non si vede e ne resta sempre più sotto gli occhi. Col Jacking, yo, Dorian grigio, filtra il sole di Londra e brilla la penombra e ogni cunicolo chiama Lucignolo. Non c'è pace senza una bomba caduta senza chi vola. E l'aria che si trova è come cercare tanto Dio e scoprirlo il diavolo che gli dice addio. All'incrocio un testa coda, ma è come droga, si fa vedere più. Non si vede come in Tanizaki, yeah. Dove se provano a fermare, come fermare il vento per i marinai, yeah. Vedere di più, dove non si vede come in Tanizaki, yeah. Dove se provano a fermare, come fermare il vento per i marinai. Nel cielo la luna resta solitaria, sotto raduna più gente di un tempio d'Okinawa. Quando il buio riunisce la notte bodhisattva, qualcuno allunga il bicchiere d'arte modigliana. Da quando il neon era sostituito da luminaria, da prima che il chiarore abbagliasse una scala musicale, suona in strade come multisale, sotto ad un clima pluviale. Tra fogli che diventano gialli e la tua vita in autunno conta quanto l'alloro sulla testa d'agosto. Io so che se si nega è come un fottuto augurio. Dove vedono uno spazio vuoto, io vedo che è come il bianco del foglio, il cuore di ogni luogo.